piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Quotidianamente una folta massa di mamme o future mamme si rivolge a Dr. Facebook per risolvere i loro problemi. Buonasera, volevo chiedermi, ma a 22 settimane gravidanza posso fare la ceretta linguine o fa male? Puoi pubblicare e puoi chiedere anche all'ostetrica? Ho inoltrato la domanda all'ostetrica di Facebook, la quale consiglia di prestare particolare attenzione perché si corre il rischio di strappare i capelli al bambino. Quindi questa è una ragazza, una vlogger, che analizza alcuni siti, alcuni luoghi di discussione su Facebook, soprattutto dedicati alle mamme, alle neomamme, alle aspiranti mamme, le mamme pancine. Le mamme pancine sono quelle che aspettano un bambino. Beh, è un universo che va sondato. Vuoi dire che cosa ce ne importa? Beh no, invece ce ne importa molto. Da lì si capisce una nuova tendenza, nuova. Da noi arriva con 30 anni di ritardo, ma i segnali emergono da una notizia di cronaca trascurata da molti giornali, trattata da tutti ma non considerata rilevante. A Udine una mamma appena partorito dice ai medici: non tagliate il cordone ombelicale a mio figlio. Quindi dice: come no, dobbiamo tagliarlo, guai voi se lo tagliate. D'accordo anche il marito, comincia, prende il telefonino, dice: io vi filmo, se mi tagliate il cordone ombelicale io vi denuncio. Perché? Perché io voglio che non sia tagliato, deve cadere naturalmente. I medici aspettano un po', poi vedendo che c'era il rischio di setticemia, stava per morire il bambino avvelenato, interviene la procura, il procuratore dà ordine di intervenire e finalmente il pediatra, come sempre bisognerebbe fare, taglia il cordone ombelicale, la donna è salva. Cosa c'è dietro questa vicenda? Beh, dietro questa vicenda c'è una storia che, pensate, che negli Stati Uniti inizia dagli anni 70. Una certa infermiera, una certa Claire Lotus, si è inventata che, secondo lei, non bisogna tagliare il cordone ombelicale quando nasce un bambino, perché lei vedeva l'aura del bambino e si era accorta che l'aura veniva in qualche maniera compromessa, bisogna aspettare che cada da solo. E da questo è nato un gruppo di appassionate, di questo viene chiamato il metodo più dolce e sensibile per entrare nella vita. Non si taglia il cordone ombelicale, bisogna aspettare che l'aura del bambino passi. Beh, voi direte, una follia. Sì, infatti la comunità scientifica dice una follia, si rischia che il bambino muoia avvelenato, è una pratica pericolosissima, c'è un rischio infezione. No, stiamo cominciando a renderci conto anche nel nostro paese che questo filone parallelo rispetto a quelle che sono le certezze scientifiche prende sempre più piede. Guardate che è lo stesso meccanismo per cui la gente non vuol fare i vaccini o pensa che possano esistere delle pratiche dolci, tenere, naturali, come fare il morbillo party, in cui il bacillo benedetto ci si passa in maniera naturale, ci si immunizza in maniera naturale. Ecco, cosa c'è dietro questa parola? Il metodo naturale, oppure siamo noi che decidiamo per la nostra salute? C'è una sorta di deriva totale di sfiducia rispetto a quel principio che ha fatto sì che l'umanità si civilizzasse, che è il principio della razionalità e della scienza. Questo viene messo in discussione soprattutto in quello che è il luogo di incontro doveva rappresentare l'emancipazione digitale dell'umanità. Noi, se diamo un'occhiata ai gruppi Facebook delle mamme, capiamo che la prossima segnalazione che avremo a livello nazionale, dopo le cure anticancro con la limonata e il bicarbonato, dopo il metodo Stamina, dopo i vaccini che fanno diventare tutti autistici, quindi bisogna immunizzarsi con il bacillo benedetto attraverso i parti in cui si passa al morbillo con un bambino affetto da morbillo, ci sarà questo nuovo filone delle mamme che ritorneranno al tempo delle mammane, al tempo delle streghe, al tempo in cui c'erano pratiche legate a una sorta di mondo fatto di esorcismi e di credenze religiose. Non ci credete? Ascoltate. Dal forum di Mamma Pancina e Donna. Sono 8 mesi che io e mio marito stiamo provando ad avere un bambino. Il dottore ci ha dato una terapia che non mi convince proprio e ho deciso di seguire altre strade. Nel gruppo segreto Facebook Mamma Pancina e Donna mi hanno consigliato il rito dell'assorbente. Bisogna prendere l'assorbente e bruciarlo con delle preghiere. Forse sono dicerie, ma che male fa a provare? Se resto incinta, ve lo faccio sapere. Una coppia di vicini che sta alla finestra accanto si lamenta della puzza di bruciato nei giorni delle malefiche. Scusate, ma nel proprio terrazzo uno non può fare quello che vuole? Questo succede quando non c'è amore nel cuore e se la prendono con una donna che vuole un figlio. Che tristezza. 800 24 00 24, cosa ne sapete voi di questo nuovo filone di sciamane che rivengono fuori, che danno l'idea che esista una classe medica cattiva che impedisce ai bambini di nascere nella maniera dolce, nella maniera naturale, che si interfaccia attraverso Facebook, che dovrebbe essere un luogo in cui le persone sono mediamente emancipate rispetto a un mondo arcaico e passato, invece accade esattamente il contrario. C'è una sorta di assalto alla Bastiglia, ma questa volta ad essere assalito non è tanto il principio assoluto del despota per investitura divina, no, il principio che stavolta è quello della competenza. Tutto ciò è competenza, tutto ciò che rappresenta comunque un acclarato strumento di saggezza viene messo in discussione in nome di cosa? In nome della superstizione. Scusate, ma le femmine che lavorano dai fiorai, quando vengono i giorni della rugiada, come fanno con le piante? Le piante non sempre muoiono. Una mia amica in quei giorni prova a toccarne una, aspetta 10 ore, se non succede niente, allora è ok. Basta che in quei giorni stai dietro alla cassa fissa e magari con i piedi dentro a un cerchio di sale. Poi se hai qualcuno che ti aiuta con i clienti, è meglio. Avete sentito due superstizioni legate al ciclo femminile che risalgono a cose che mi sembrava aver sentito dire dalle contadine quando ero piccolo, io parlo di 60 anni fa. Bruciare l'assorbente con dentro il mestro probabilmente esorcizza il fatto che non si possa essere feconde, oppure la donna mestruata se tocca le piante le fa appassire. E quindi queste signore, probabilmente con lo smartphone di ultima generazione, vestite fashion e marchiate dalla testa ai piedi, che mandano i selfie con il bicchierone con il cocktail in posti esotici, però dicono bisogna fare un cerchio di sale così puoi toccare le piante. Laura, buongiorno. Buongiorno. Allora, io volevo riferire il fatto che sono pediatra, neonatologo ospedaliero, e nella mia attività lavorativa ne ho sentite tante. Questa del cordone l'ha mai sentita? No, questa del cordone no. Le si prepari. Che si volevano mangiare la placenta. Adesso è quello, ci stiamo arrivando. Sì. Allora, questa no, racconti. Però... questa della placenta me la racconti. Anticipa qualcosa che stavamo per dire. In questi gruppi una delle notizie che ci si passa è siccome gli animali si mangiano la placenta, siccome esatto. Alcuni divi fanno questo, le mamme dopo aver partorito la prendono, la condiscono, la fanno con le erbette, con le spezie sì, se la mangiano. Sì, ci fanno il brodo, perché io le posso garantire che fino a 20 anni fa in provincia di Roma nelle campagne con la placenta ci facevano il brodo e poi le facevano bere alle madri. Sì, vabbè, ma allora, è una cosa stregonesca, era una sì, parte arcaica del paese che... Ma queste cose si vincono con la scienza, col parlare e con lo spiegare. Cioè noi medici abbiamo una grande funzione che è quella di spiegare ai nostri pazienti come stanno le cose. Anche l'ignorante, la persona più semplice è in grado di capire, ma tu devi dare qualcosa. Cioè bisogna dare noi stessi ai pazienti, bisogna spiegare. Perderci molto tempo. Lei, dottoressa, mi spiega un attimo. Sì. Come trova possibile che, essendoci oggi degli strumenti molto più avanzati di scambio delle informazioni rispetto alle contadine dell'agro romano che negli anni 50 bollivano la placenta, ma io posso raccontarle quello che facciano in Umbria, ancora peggio. Che oggi, diciamo, persone che hanno tutti gli strumenti e sia nata questa sorta di sfiducia generale verso tutto ciò che è razionale, tutto ciò che è scienza, tutto ciò che è medicina. Il mio parere? Sì. Il mio parere? L'Italia è scaduta come cultura. Sì, però questa roba viene dall'America, noi ci arriviamo con 20 anni di differenza, ma già esiste. Sì, ma perché? Ascolti, dottor Nicoletti. Allora, noi siamo scaduti come cultura. La scuola che cosa serve? A permetterci di avere uno spirito critico? A vagliare le conoscenze, a capire quelle giuste, quelle sbagliate, quelle fasulle, le sole, no? La scuola serve a questo, poi se andiamo a stringere in modo semplice. Ora la maggior parte delle persone è ignorante, cioè in Italia la cultura, il livello culturale è scaduto tantissimo. Le faccio ascoltare una cosa, dottoressa, e poi mi dirà anche lei, nella sua pratica quotidiana, quali altri episodi simili ha trovato di superstizione riemergente. Queste sono cose che fanno ridere, facciano parte delle leggende di campagna, delle dicerie che dicevano le nonne e le bisnonne, ma io sto parlando di epoche arcaiche. Oggi c'è internet, è possibile che internet questo faccia venire fuori? Come posso curare un orzaiolo sulla palpebra superiore di mia figlia di 7 anni? Risposte. Mia nonna diceva di strofinare la fede nuziale sulla parte. Mia nonna mi consiglia sempre alla mattina a digiuno di guardare per 3 volte per 20 secondi nella bottiglia dell'olio. Sparisce da solo dopo 2 o 3 giorni. Metodo che uso da quando sono nata. Io mi preoccupo, poi queste signore le vediamo girare con la smart, con il telefonino all'orecchio. Sono le interlocutrici delle nostre giornate. Cosa ne dice lei, dottoressa? Io dico sempre il solito problema, è l'ignoranza. L'Italia è scaduta, l'Italia è caduta in basso, non abbiamo più cultura. Allora, questo che è successo a Udine, mi dispiace per i colleghi, ma chi si comporta in questo modo non è un medico. No, no, hanno chiamato la procura, il medico per operare ha chiamato la procura, ci cioè, mi autorizzi. Ascolti, dottore, ascolti, a me è capitato per esempio il testimone di Geova. Sì. Non puoi fare una trasfusione, ma un bambino con uno stato anemico, moribondo, con 1 milione di rossi, tu la trasfusione la devi fare. I carabinieri mi hanno tenuto i genitori e tutta la combriccola de loro, insomma. Comunque ha salvato gruppo. La vita al bambino, lei. Ma certo che gliel'ho messa la trasfusione. I carabinieri mi hanno tenuto ferma questa folla che mi voleva aggredire. Ho messo la trasfusione al bambino. Ci siamo guardati con il maresciallo, abbiamo detto, andiamo insieme in tribunale, maresciallo, ci accuseranno per abuso di potere. Ma ho salvato ma una vita. La nostra coscienza. Però, non giustifico, lo trovo una cosa folle, però lì almeno è iscritto in un bel determinato filone parareligioso, non so bene adesso cosa sia o religioso, pensano che quello sia faccia parte della loro religione, ma questo è diffuso invece a macchia d'olio, nella genericità delle persone. Ma sì, ma perché è nell'ignoranza, queste dicerie, queste credenze primordiali, perché la persona colta non crede a queste cose, quindi... è l'ignoranza del nostro paese. Beh, ascoltiamo, allora ascoltiamo, visto che parliamo tanto di educazione, educazione sessuale, di emancipazione, sempre in un forum di persone che comunque si hanno un minimo di alfabetizzazione perché hanno uno smartphone, sanno come ci si iscrive a un forum di Facebook e comunque hanno una vita sociale apparentemente normale. Messaggi dai forum di mamme. Amiche, 4 mesi fa ho avuto un rapporto con il mio ex marito e abbiamo usato il calzino. Il marchese mi è venuto regolare negli ultimi 3 mesi, ma mi dicono che il calzino non è un metodo sicuro. Secondo voi posso essere incinta? Maria Vittoria Scoditti, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Stavo ridendo ascoltando l'ultimo messaggio. Ma secondo te hanno messo un calzino o è una maniera edulcorata per nominare il profilattico? Esatto, ma perché le mamme pancine hanno tutta una loro dialettica e bisogna studiarla, per esempio il ginecologo diventa il gine, oppure i bambini non hanno un'età che si esprime in anni ma si esprime in settimane, quindi anche un bambino di 4 anni la sua età viene conteggiata in settimane, questo per fare degli esempi. Io ho citato Maria Vittoria Scoditti, ti presento perché ha fatto un pregevole pezzo su barinedita.it, è un sito che si è presa la briga di iscriversi e di entrare nei siti delle mamme pancine. Dimmi cosa hai visto, le cose più orripilanti. Le più orripilanti. Ci sono per esempio delle ricette su come cucinare la propria placenta, ci vengono fatti dei frullati di placenta. Su YouTube ci sono dei video in cui si spiega come si pulisce, come si taglia. Ci sono delle mamme... Come fosse trippa praticamente. Come fosse trippa, sì. Che poi sì, fa oppure... un po' senso. No, vabbè, infatti ci vuole pelo sullo stomaco per guardare questi video, diciamo che io ho avuto abbastanza coraggio. E ci sono anche moltissime pagine Facebook in cui si parla della Lotus Birth, che è una pratica molto pericolosa, ma che adesso in Italia sta cominciando a diffondersi. Il primo segnale è questo di Udine, abbiamo citato la fonte. Cominceranno a dire non tagliate il cordone, vogliamo vedere l'aura del bambino, guai a interrompere l'aura del bambino. Certo, e il problema però è che molte di queste mamme partoriscono in casa, per cui partoriscono con un'ostetrica e i bambini rimangono attaccati al cordone ombelicale dai 3 ai 10 giorni. E cioè, finché non si putrefà, perché guarda, io ho avuto figli, il cordone ombelicale anche quando lo taglio rimane quel pappettino verde puzzolente tutti i giorni di pulirglielo, l'ho fatto ai miei figli, è una cosa, mi ricordo io con mia moglie, la prima volta abbiamo portato il primo figlio a casa, abbiamo spogliato, abbiamo visto quest'alieno che gli usciva dalla pancia, ci veniva da vomitare, ma poi abbiamo fatto con le cremine, adesso mi ricordo, è un affare verde putrefatto puzzolente, quindi c'è tutto il bambino attaccato per 10 giorni. Tutto il bambino attaccato per 10 giorni e il bambino, la placenta si mette di solito in muscolapasta oppure in un telo con del sale grosso per farle essiccare e degli oli essenziali. Loro consigliano l'olio essenziale di lavanda, che poi insomma toglie quell'odore di rancido e lascia un profumino per tutta la stanza. Io l'ho vista la pacina, quando è nato mio figlio Filippo, andai a vedere appena nato, sotto mia moglie avevano messo un secchio, c'era dentro questo alien che stava uscendo da lei. Cioè, non è che sia proprio una cosa bella, naturale, il miracolo della vita, ma mangiarsela mi sembra una cosa un po'... Ma il principio qual è? Perché lo fanno gli animali, quindi anche noi dobbiamo fare le cose naturali. Esattamente, perché siccome gli scimpanzé non recidono il cordone ombelicale ma lasciano che il cordone si stacchi da solo, allora è giusto che anche le mamme facciano così, perché aiuta sia a creare un legame più stretto con il bambino, che è esattamente quello che non ci vorrebbe. Il nostro problema nazionale è che prima si staccano è meglio. Esatto, siamo anche un po' troppo legati, tagliamolo questo cordone, e in più dovrebbe avere dei benefici proprio fisici sul bambino, perché in questo modo tutto il sangue contenuto nella placenta arriva al bambino e le difese immunitarie. Sì, ma i medici dicono che è una cazzata, tutti hanno detto, certo, le più certo. importanti associazioni inglesi, americane, penso adesso cominciano, dicono che è una cosa che non, si rischia setticemia, rischia di morire il bambino. Fermi un attimo, lasciamo un attimo la linea 800 24 00 24, date fondo a tutte le antiche credenze delle mammane, delle streghe che mettete in pratica nascosti dietro il vostro smartphone. Melog. Vorrei sapere se mia figlia di 17 anni ha tutto a posto. È stata in vacanza da sola e io ho paura che sia successo qualcosa. Esiste un esame del sangue per capirlo? Se la porto dal ginecologo, io già so che lui mi farebbe uscire dallo studio per rimanere a parlare solo con lei. Io non mi fido, perché i ginecologi appoggiano le donne libertine. A mia figlia direi: tu mi mandi fuori dalla stanza? Io ti mando fuori di casa! Siamo nel 1820, una mamma è preoccupata, ma nemmeno tanto, forse ancora prima, per l'integrità della figlia, chiede un esame non invasivo per accertarsene. Non la porta dal ginecologo, perché il ginecologo naturalmente la fa uscire dalla stanza, ma le vuole questa certezza, quindi vorrebbe essere ancora padrona di quella che è l'integrità fisica della propria figlia. 800 24 00 24, stiamo analizzando i siti delle mamme. Anna, buongiorno. Buongiorno. Io porto la mia testimonianza rispetto al taglio del cordone ombelicale. Sì. O non taglio. Io ho avuto una bambina che è nata in ospedale e avevo chiesto di poter non tagliare il cordone ombelicale, cioè non separare la placenta, perché avevo letto, mi ero interessata a questo Lotus Birth, avevo letto il libro, che tra l'altro vi consiglio, almeno per un'informazione diciamo completa, dando le parti. Anch'io leggo Harry Potter, però non è che per no. questa ragione volo sulla scopa, Beh, ci mancherebbe, ma qui non è niente di stregonesco. Beh, signora, un'infermiera che dice che vede l'aura del bambino sul cordone ombelicale, cose del genere, scusi. Ma questo io non lo so, l'aura io non la vedo. Diciamo che ho fatto questa scelta perché ero convinta che fosse un modo per permettere, diciamo, una nascita e un arrivo appunto più dolce nel mondo, più dolce, più lento. Ma se la medicina e la scienza le dice che è pericoloso per il suo bambino, perché dà retta all'infermiera piuttosto che al medico? Io non so chi dice che è pericoloso per il bambino, perché io ho chiesto prima ovviamente il permesso al reparto maternità dove avrei. Ma quanto tempo c'è rimasto attaccato il bambino? Il mio? 4 giorni, il tempo normale. Allora le spiego, il cordone ombelicale non è che diventa putrefatto, marcio verde. Io non so cosa è successo ai suoi bambini. Ma quando lo tagliano sì. Quando lo tagliano sì. Il cordone ombelicale si secca. Vabbè, verdino, quindi, fa un po' schifo. Dopo le prime ore comunque non c'è più nessun passaggio di liquidi tra il bambino sì, e la placenta. Ho capito, ma quando lo tagliano ne rimane un pirulino fuori che certo, pian piano cade. Quel pirulino si secca. Cioè, fa un po' schifo, diventa verde, fa schifo. Quel pirulino si secca l'intero cordone, cioè non cambia nulla in realtà. E magari rimane... Vabbè, sì, nessun problema. Scusi? Sì, va bene, ok. Gli tiene la coda per una settimana. Okay. No, una settimana. Se il cordone si stacca normalmente in 3, 4, 5, 6 giorni, così succede al cordone più la placenta. Cioè, il processo è lo stesso. Quindi è un bambino con diciamo, questo cordone... In fondo al cordone c'è ancora... tiene la sua placenta che gli ha permesso per 9 mesi di comunicare con la mamma. Ma 4 giorni puzza la placenta. placenta, cioè sta roba no, putrefatta. Guardi, le posso dire, la mia placenta non puzzava per niente, l'avevo messa nel sale per aiutare a seccarla e mantenerla, e stava sulla, appoggiata in. Quindi lei mette in salamoia, come... la, scusi, la placenta, ci rilascia il bambino attaccato? No, in salamoia, con un po' di sale grosso, giusto per aiutare ad assorbire l'umidità. E in un pannetto appoggiato sulla pancia del bambino insieme ai suoi vestiti, non succedeva niente. Allora, ma si rende conto che è una pratica magica, posso... signora? È una pratica magica, lo legge nei libri delle streghe questo? No, non è nessuna pratica magica, guardi. Allora, resti. È un po' lo stesso modo per cui una volta i bambini li prendevano a testa in giù per i piedi appena nati e li scuotevano bene così che piangessero. Adesso non lo fanno più, per fortuna. Voglio dire, ma anche allora si pensava che questo, il pianto, l'urlo del bambino, una volta morivano sua... un sacco di bambini, ne morivano a tonnellate, le donne facevano 20 figli e ne sopravvivevano 5. Di igiene non c'entra niente. Vabbè, comunque lei, signora, che competenze ha di medicina? Dire, io avevo informato i medici prima del reparto e loro mi avevano detto: guardi, non ne sappiamo niente, ci informiamo. Hanno studiato, si sono presi 2 mesi di tempo e alla fine il primario stesso mi ha detto: sì, guardi, abbiamo studiato, in effetti pensavamo fosse una cosa che porta a grandi possibilità. E dove stava questo primario? Che ospedale era? Solo per capire, un primario che dice che ha studiato sul libro della provincia di Belluno. Ferma un attimo, resti in linea, Anna. No, non la voglio, farla interloquire con altra persona e poi a facoltà di parola. Antonella, buongiorno. Buongiorno. Lei è un'ostetrica? Sì, io sono un'ostetrica forense e conosco bene questa cosa perché sono stata fino all'anno scorso presidente dell'Associazione Italiana di Ostetricia, che è una società scientifica che è la prima in Europa che annovera ostetriche e ginecologi insieme. Perché faccio questa premessa? In questo momento io sono il segretario nazionale e devo dire mi sono sentita in qualche modo chiamata in causa su una questione che non ritengo tanto grave per il fatto in sé, perché poi le persone decidano di fare quello che vogliano e dopo però devono anche prendersi la responsabilità degli accadimenti e non andare ad accusare ostetriche e ginecologi. Siccome voi giustamente avete richiamato in causa le ostetriche, mi sento in dovere di intervenire. Faccia un punto, la sta ascoltando la signora Anna. Faccia capire. Gli ostetri in Italia che si occupano di questa cosa sono veramente un numero minimo, quindi non possiamo parlare delle ostetriche 18.000 persone, ma di... cioè specializzate nel cordone non tagliato. Non è che sono specializzate, cioè come diceva anche prima la pediatra, purtroppo secondo me condivido il fatto che stiamo un po' dal punto di vista culturale tornando un po' indietro. Però scusi Antonella, da un punto di vista ostetrico, medico, clinico, è una cazzata. No, allora aspetti, esistono degli studi in itinere, infatti volevo dire... Sì, ma lo studio in itinere, è come dire i vaccini, ci sono degli studi. Sì, la comunità sì. scientifica dice è pericoloso, non serve a niente. No, allora, la comunità scientifica su questa cosa non si è espressa scientificamente. No, si è espressa, perché... guarda, posso dire, c'ho davanti la citazione, posso dire tutti quelli che comunque sono... Comunque ci sono degli studi in itinere, ma io... Collegio Reale degli Ostetrici Ginecologi di Londra, che è un istituto autorevole, dice... È a rischio infezione quando contiene il sangue in questa fase postparto. Non vorrei essere fraintesa, scusi, la interrompo. Cioè, io personalmente non condivido questa pratica, quindi cioè, lo dico, è una cosa personale, però parlo in generale. Cioè, io so per certo che ci sono degli studi scientifici in itinere che non hanno garantito, cioè, niente rispetto a questo che loro dicono: laurea, la nascita più naturale. Siamo addirittura arrivati a un punto dove ci sono persone non facenti parte del settore sanitario, perché noi abbiamo segnalato anche al Ministero della Salute. Non c'entra niente con la medicina e con la scienza. No. Sono praticoni, mammane, stregoni. C'è anche un altro problema, che siccome in Italia abbiamo una fitta rete di persone che non sono medici, non sono ostetri, sono dei praticoni, tra l'altro abusivi, perché noi l'abbiamo plurisegnalati al Ministero, agli ordini dei medici, alla Federazione delle Ostetriche, cioè, e a queste praticone si aggiungono anche, cioè, alcune ostetriche poi che tra l'altro abbiamo segnalato anche questo. Quindi c'è un problema, diciamo, a monte di una pratica spirituale sta cominciando a venire fuori il problema che persone non autorizzate facciano partorire le donne. Che poi la signora Anna che in ascolto pensi che fa bene al suo bambino mettere il cordone umbilicale sotto sale, è una sua convinzione, però lei come ostetrica accetterebbe una pratica del genere? No, se, infatti, se avessi Anna come paziente. Devo dire che mi sento molto in difficoltà, perché anche quando sono al lavoro con delle persone, siccome viene una cosa, una pratica che viene richiesta, ci sono degli ostetri che in questa cosa ci credono, e quindi diventa un motivo anche interno di scontro tra di noi, no? Perché la maggior parte non siamo d'accordo, un numero minimo è d'accordo. Quindi sta prendendo piede in Italia. Come per i vaccini, la gente pensa che è meglio non farli, oppure se c'è un ragazzo autistico lo metti nella camera iperbarica, e ci sono persone non autorizzate, fanno partorire le donne e poi gli mettono il cordone sotto sale perché pensano che questo faccia bene al bambino. Fanno anche molto peggio. Peggio che vuol dire? Non lo posso dire qui, però... Perché non lo può dire, scusi? Ma perché no? Perché ci sono dei controlli in corso, abbiamo segnalato nei luoghi opportuni anche altre cose. Sì, però mi faccia capire la pratica, il tipo di pratica. Ma scusi, secondo lei è normale che la placenta ci venga fatta il frullato, la marmellata? Ah, quello l'abbiamo già detto. Sì, ma infatti... Ci fanno il frullato, ci fanno il brodino, ci fanno anche altre cose. Tipo quindi, cosa? Siccome, mangiano? Siccome trasportare la placenta dal luogo dove è avvenuto il parto... Non si potrebbe. Non si può, e quindi... Perché la mia me l'hanno presa loro all'ospedale, mica me la sono potuta portare via. Quanto pesa la placenta? È un bel pacchetto, non è che sia proprio... Quant'è una placenta? Sì, dipende. Ma non sono tutte uguali, sono più piccole, sono più grandi. Si può avere una placenta di 200 grammi, ma una da 500, cioè dipende... Mezzo chilo di trippa, una cosa del genere. Ma comunque vedere sui siti internet, cioè che vengono date le ricette, come diceva la pediatra, le ricette per fare le marmellate, e quando io vedo delle colleghe che sono coinvolte mi sento nella dimensione di doverle segnalare, perché questa cosa non ha nulla di scientifico. Ferma un attimo, dobbiamo lasciare la linea, però restate in ascolto che è interessante. Casualmente questa trasmissione non chiama mai ospiti, gli ospiti intervengono perché evidentemente l'argomento è di interesse, qualcosa di sensibile che è nell'area. Ancora non avevo mai sentito parlare di un problema serio, clinico, medico, per cui la nostra ascoltatrice, che è una ostetica forense, quindi si occupa anche degli aspetti legali, giuridici, sta cominciando a segnalare una preoccupante deriva da parte anche di suoi colleghi, ma anche di persone che non c'entra niente la sua professione, per fare queste pratiche stregonesche, perché da stregoni prendere la placenta, frullarla e farci la marmellata, come da stregoni pensare che il bambino ha un'entrata dolce nel mondo, si lascia attaccato per una settimana il cordone ombelicale. Melog. Mamme, ho bisogno di un consiglio, ma senza offesa, se non credete alla verità, state zitte, per favore. La mia vicina mi preoccupa. Abbiamo la veranda in comune, stende sempre tre panni o tre lenzuoli o tre magliette. La sua casa all'interno tre. E quando mi vede uscire di casa con la mia piccola, dice sempre guardandola: «Sei bella, bella, bella!» Tre volte. È una signora sola e nessuno sa cosa faccia in casa. Voglio far benedire la piccola e la casa. Cosa posso dire al parroco? Ci credete alla fattura del tre o sono solo dicerie? Voi direte che c'entra la fattura del tre col cordone ombelicale in salamoia? È la stessa cosa, è lo stesso principio. E dal grande grimorio delle stregonerie viene fuori anche questa. Però sul fatto del mangiarsi la placenta, frullarla, farci la marmellata, farci gli intingoli, farci il minestrone, sul fatto di tenere per una settimana attaccato il bambino al cordone ombelicale mettendolo sotto sale finché appunto non si stacca da solo, che sono pratiche magiche che nulla hanno a che fare con la scienza. Ci ha chiamato Antonella, ostetrica forense, dice che è preoccupata, c'è un'inchiesta in corso, sono delle ostetriche cominciano a farlo, perché per la gente lo chiede, ma ancora peggio, ci sono delle praticone, partorisce a casa così il bambino ha un'entrata dolce e più sensibile nella vita, quindi lasciali attaccato sto pirolone putrefatto, così almeno è più dolce. Ma che è una cosa controsenso, tutti i medici, no, è una stronzata. No, ma i medici sbagliano, perché è un'ingerenza maschile, ho sentito dire anche questo, perché gli uomini sono voluti impossessare dell'unico momento le donne, quello del parto. Siete parsi a partorire in ospedale, bisogna partorire a casa, perché è una cosa di donna. Ecco, sembriamo tornati ai misteri eleusini, capito? Ma sentiamo Elga Marsala, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Elga Ciao. Marsala è indisposta questa mattina perché sta a letto con la febbre e avrà scritto sul sito delle mamme pancine come mai qualcuno gli ha fatto un maleficio. È una giornalista e critica d'arte. Vedete che c'entra? C'entra perché lei puntualmente sta postando gli screenshot di queste enormi boiate, addirittura ha fatto un elenco di come queste donne definiscono il mestro. Me ne dice qualcuna? Com'è la rugiadina? Tutto un glossario delle mamme pancine, cioè c'è la rugiada, le malefiche, sì, tutto un loro vocabolario, perché insomma, ecco, che impressione ti sei fatta te? Che sei fatta di questo fenomeno? Che impressione ti stai facendo? Ora, al netto della percentuale sicuramente presente di dei cosiddetti troll, quindi alcuni di questi Il problema c'è, vedi, ci ha chiamato l'ostetica forense e ha detto è vero. Infatti dico, è possibile che alcuni di questi posti sono falsi, ovviamente non possiamo sapere quali siano autentici. Beh, però, il frullato di placenta c'è, questo no, è un dato di fatto. No, però questi fenomeni ci sono, assolutamente sono, cioè, è un fatto evidente, insomma, che... quello che a me soprattutto colpisce non è, perché la tua prima ospite parlava di un'ignoranza diffusa, no? Dice l'Italia è decaduta, stiamo tornando indietro, sicuramente c'è questo elemento, c'è un problema di ignoranza, c'è un problema di superstizione, c'è un problema anche di emancipazione delle donne, cioè queste donne che vivono il proprio corpo senza assolutamente nessuna coscienza, consapevolezza, che vivono il sesso come lo vivevano le loro nonne, le loro bisnonne addirittura, sono spesso mamme giovani di 30 anni, di 40 anni, quindi c'è un problema ancora fortemente di ignoranza. Ecco, io ti faccio la domanda però non ce ne eravamo accorti e ce lo fa capire i social network, oppure c'è stata proprio una regressione generale verso il principio della razionalità? Entrambe le cose, nel senso che i social network ci consentono di avere uno sguardo su pezzi di mondo che non facevano parte del nostro quotidiano, quindi noi non sapevamo, no? Perché magari i nostri amici, i nostri parenti erano lontani da tutto questo, io stessa non avevo idea che ci fossero certe realtà, per cui i social network ti mettono in rete con tutto quello che esiste, ti gettano proprio nella giungla del web e quindi ti accorgi, i fenomeni emergono. Però io ho la sensazione che al di là appunto dell'ignoranza, cioè, come mai tutto questo avviene anche all'interno di fasce sociali borghesi, colte, alfabetizzate? Assolutamente trasversale. Assolutamente trasversale, quindi non possiamo soltanto dire sono le pancine ignoranti che non usano le H, le accentate. Sì, ma le pancine, sai, sono nostre colleghe, nostre amiche, quelle che frequentiamo noi, non sono diverse. Abbiamo sentito anche questa tua ospite, che era una persona chiaramente, insomma, che parlava un italiano perfetto, che chiaramente aveva anche letto, studiato, per cui, e anch'io ho diciamo incontrato testimonianze di persone laureate perfettamente consapevoli, ma che si vanno a rifugiare nel santone di turno, nella credenza di turno, cioè ti rendi conto, Elga, questa crede a un libro scritto negli anni 70 ad un'infermiera che diceva di vedere Laura e quindi bisogna lasciare questo condono umbilicale, rispetto a tonnellate di pubblicazioni scientifiche che dicono che in realtà... Ma non è, allora il problema non è, secondo me, che queste persone, almeno molte di queste persone, non hanno un minimo di formazione scolastica o scientifica, anche perché non è che il nostro sistema scolastico rispetto, non so, all'America sia poi così arretrato. Io non credo che sia solo questo, perché appunto se persone con delle lauree, con delle professioni anche importanti, poi cadono in queste superstizioni, si curano con gli intrugli o non si fanno tagliare il cordone, c'è un problema. Il però problema, scusami, Ega, il problema è sì, più ampio, ma è più ampio ed è un problema di a mio avviso di mancanza di sicurezza. Cioè, sì, però renditi conto, questo fenomeno noi lo stiamo registrando adesso, forse stamattina per primi su un network nazionale, ma un fenomeno che negli Stati Uniti c'è da anni. Stiamo semplicemente, come sempre, ereditando l'ennesima moda, arrivando ultimi. Sentiamo un uomo, finalmente oggi l'unico uomo che chiama, c'è Mauro. Mauro, buongiorno. Buongiorno. Oggi hanno chiamato solo le donne, è la prima volta, notatelo. Mauro, sì. No, io ho chiamato perché sto sentendo, ascoltando questa trasmissione con interesse, no? Da dove chiami? Da dove chiami? Io chiamo da Brescia, però sono nato a Palermo. Sì. Velocesto, che la sigla ci porta via. Cosa succede a casa tua? Succede che io qui davanti a me il mio ombelico mummificato, sono nato negli anni 70. E praticamente era una cosa molto consueta, conservare, mummificare, diciamo, E che lo farai, male, lo, te lo tieni quando morirai, te lo fai seppellire assieme a te, così vi ricongiungete. Mi sembra un'ottima cosa. C'è ancora attaccata la pinzetta dello strete, che è ancora attaccato qui. Che ti devo dire? Lo so, benvenuti nel mondo moderno. Ciao, in bocca al lupo, ci siamo divertiti. Alla prossima.